Ok. Per me va bene. Ok. Ci si vede. Ok, ci si vede. Ah sì. Certe volte il destino è troppo bello e molto strano. Quella mattina mi trovavo vicino a te, non so come, neanche perché. Da tempo già ti osservavo e finalmente il giorno è arrivato. Così potrò conoscerti meglio, ma la sorpresa l'ho avuta io. Perché sapevi già molte cose su di me, su di me, su di me. Adesso vorrei tutti i giorni guardarti, parlarti, ascoltarti. È più forte di me, ora sei entrata dentro il mio cuore, sangue e testa. Che ci posso fare se adesso ti amo? È vero, ti amo, sei il mio tesoro. Se non ti vedo la mattina, la mia giornata si ferma qua. Sei troppo brava, giusta e carina. Come fare ora che sei lontana? Ok, ci si vede, allora aspetto, io ti credo. Ok, ci si vede, sto a fianco al telefono. Fammi sapere quanto mi vuoi vedere. Io non ti cerco più sperando che lo farai tu. Fammi sapere quanto mi vuoi vedere. Io non ti cerco più sperando che lo farai tu. Non mi tolgo più dalla mente i tuoi gesti, il tuo saper fare. Fantastici ricordi che per sempre resteranno tranquilli a dormire dentro di me, per poter risvegliare quanto voglio, quanto mi pare. Ma quella notte lì mi dicevi sempre di sì, poi senza un valido motivo sei partita all'improvviso. Ok, ci si vede, allora aspetto, io ci credo. Ok, ci si vede, sto a fianco al telefono. Fammi sapere quanto mi vuoi vedere. Io non ti cerco più sperando che lo farai tu. Fammi sapere quanto mi vuoi vedere. Ok. Ok. Ok, per me va bene. Ok, ok. Ci si vede. Ok, ci si vede. Ci si vede.